con problemi perché affronteremo il tema della Unione Sportiva Fiumana, una società calcistica della città quarnerina di Fiume, adesso si chiama Rijeka, è in Croazia. Questa squadra nacque il 2 settembre del 26 in una città diventata italiana dal punto di vista proprio geopolitico soltanto 2 anni prima. Giocò in Italia nel campionato in divisione nazionale, poi in Serie E B e giocò l'ultima partita nella stagione 42-43. Dopo la guerra, la città, come tutti sanno, finì ormai nella Jugoslavia. Però la Fiumana rivuole partecipare a un campionato italiano. Gli esuli fanno rinascere la squadra istriana e hanno chiesto, visto che eravamo professionisti, ridateci la Serie C. Questo per sommi capi, ma affronteremo questa bella storia di calcio e di umanità con Sergio Vatta, ex allenatore che ha vinto 4 scudetti, 6 Coppe Italia, 4 tornei di Viareggio con la Primavera del Torino e che è stato il maestro di tantissimi campioni, e con Antonio Vatta, suo fratello, presidente della Consulta regionale piemontese dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Buon pomeriggio Sergio e buon pomeriggio Antonio Vatta. Buon pomeriggio a Buon lei e a pomeriggio a tutti i lei e a suoi tutti i ascoltatori. ascoltatori. Benissimo, ha risposto prima Sergio? Sì, Sì, Sergio, prima. benissimo, ora tocca a lei Antonio. Antonio, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, ho detto delle cose giuste o qualcosa di sbagliato? In qualche modo, insomma, dobbiamo recuperare questa Fiumana che credo avesse la maglia arancione, dico bene? Amaranto, Amaranto. Amaranto. Però qualche volta giocò anche in maglia arancione con la stella bianca, ho letto su qualche giornale, o è sbagliato? No, no, è vero, sono Sergio. Ha giocato anche con quella maglia, ma poi dopo la fusione la maglia fu l'amaranto con pantaloncini blu e dei risvolti gialli, insomma, Gialli e rossi. con la famosa stella Unione Sportiva Esatto. Fiumana. E dunque, voi giustamente volete, come dire, far tornare in vita l'Unione Sportiva Fiumana. E non è soltanto un'operazione di nostalgia, ma anche, come dire, un'operazione che riguarda il cuore, questa grande squadra che ebbe, e poi la vostra terra ha avuto dei campioni straordinari. Mi ricordo i fratelli Vargen, Loic, poi Folk, Michalic, e Folk, quindi. sì, della Roma, Mihalic, ancora Juventus, insomma tantissimi campioni, non solo di calcio, ma anche in altri sport, perché Fiume si caratterizza proprio per questa straordinarietà. È una piccola città, era una piccola città, che però non ha mai mostrato, diciamo, una normalità in qualsiasi sua manifestazione, è sempre stata straordinaria, nello sport poi in modo particolare, perché i campioni che ha dato vanno ben oltre i risultati che ha ottenuto come squadra, perché tutti i suoi campioni hanno invaso il campionato italiano, vanno ben oltre i risultati che ha ottenuto come squadra, Torino, Roma, Fiorentina. Insomma, una cosa che ha dell'incredibile. Ecco, e poi Sergio, la interrompo un attimo per ricordare anche altri sportivi e non soltanto calciatori. Missoni, nato a Ragusa in Dalmazia, ma vissuto in gioventù a Zara, specialista nei 400 piani e negli ostacoli, il marciatore Missoni, fiumano. tra l'altro, è il nostro sindaco della città del libero comune di Zara in esilio. Lei In sa che noi esilio. abbiamo i sindaci Certo, e lui è il nostro, Ottavio è il nostro sindaco. E poi ricordavo il fiumano Abdon Pamic, Nino Abdon Pamic, Benvenuti, nato a Isola d'Istria, che abbiamo avuto in trasmissione, i grandi tennisti fiumani Cucelli, Cucelli e Sirola, Sirola, i velisti Straulino e Rode, il Rode, pilota automobilistico Mario Andretti, che era originario di Montona d'Istria. Ecco, ma Antonio Vatta, benvenuti. lei che è il presidente della Consulta regionale piemontese, è realistica, è possibile riportare la Fiumana nel campionato italiano di Serie C? Per noi senz'altro è una cosa, diciamo, che senz'altro avverrà, perché noi abbiamo chiesto alla federazione in primis, perché ci aspettiamo dalla federazione gioco calcio, diciamo, questo riconoscimento per tutto quello che gli atleti, diciamo, delle nostre terre hanno dato nei tempi, cioè, in tutti gli sport. quindi sarebbe un'occasione grandissima per lo sport, questo qui. Però se lo sport, la federazione, non concederà questo riconoscimento, noi ricorreremo, diciamo, per vie, diciamo, politiche, perché ci sono due leggi che ci tutelano, diciamo, la legge 137 del 52, assistenza per gli esuli. L'articolo 28 dice che tutte le società che erano, diciamo, nella Croazia, venendo in Italia, potevano, diciamo, riprendere la propria attività, quindi penso anche una società calcistica. Poi diciamo che nell'81 la 763, un'altra legge, riprendeva questo discorso. Quindi noi abbiamo queste possibilità. Avete, come dire, le carte in regola per poter, certo, ottenere questa iscrizione. Io volevo solo dire che noi questa cosa l'abbiamo detto alla federazione, quindi ad Abete, e ci aspettiamo da loro questo riconoscimento, lo ribadisco, perché se non andremo avanti per via politica, e noi dalmati siamo caparbi, questa cosa senz'altro la porteremo diciamo in porto. Con tutti i mezzi ci batteremo, diciamo, fino allo spasimo. Certo, se mi consegui una battuta, che ci aspetta proprio il diritto di tutto diritto. Quello che abbiamo sopportato, diciamo. Presidente Antonio Vatta, se mi consente una battuta, come a Trieste ci sono le mule, insomma, voi esuli siete muli in quello, come certo, siamo muli volontà anche. Poi noi dalmati siamo un po' ancora più muli, diciamo, dei muli. Senta, voi giochereste allo stadio Parco Ruffini, 8.000 posti, sì, che potrebbe essere, sì, ristrutturato, no? Sì, ristrutturato, è un bel campo e, diciamo, per noi va benissimo, diciamo, e quindi abbiamo già parlato col comune di Torino, con l'assessore allo sport, e quindi ce lo danno senz'altro, ci danno anche un altro campo della Coletta per allenamenti per i giovani, quindi da quel lato lì le istituzioni, diciamo, piemontesi, comune, provincia e regione sono disponibili. Ecco, perché Antonio Vatta Torino? Perché il maggior numero di esuli dalmati si è localizzato in Piemonte? No, Torino prima di tutto è logistico, perché noi abitiamo a Torino, quindi questa idea, questa cosa che noi ce la portiamo da anni dietro, questo sogno, ecco, di realizzare questo sogno, perché a Torino. Poi perché Torino? Perché Torino, dei fiumani, diciamo, Loichi, Vadi e Rinviali, qui a Torino hanno vinto 16 scudetti tutti assieme, diciamo, quindi ecco Torino. Poi Torino è concentrato forse il maggior numero di fiumani, diciamo, non di zaratini, dalmati, come siamo io, Sergio e Missoni, ma di fiumani. Adesso, a proposito di scudetti, andrei da suo fratello, perché di scudetti ne ha vinto tanti, e io ricordo soltanto i giocatori che ha scoperto, a parte il portiere che manca nella sua ideale formazione: Francini, Cravero, Benedetti, Mandorlini, Fuser, Di Nobaggio, Venturin, Sclosa, Lentini e Vieri. Insomma, mi pare qualcosa come una resa di 350 miliardi di lire. Li ha scoperti dal nulla, Sergio, e li ha creati grandi campioni. Com'è andata? È stata una cosa che non si ripeterà più, perché c'è stata una concomitanza di situazioni favorevoli. Intanto un grande gruppo, un grande staff nel settore giovanile, capitanato da un dirigente competente come era l'avvocato Cozzolino, e dal più grande scopritore di talenti di tutti i tempi in Italia, che era Cinto Elena, Giacinto, e il quale è stato anche un compagno di squadra del grande Torino, disputando 29 gare nel primo scudetto dei 5 consecutivi del Torino, ed è stato il capo di tutti del settore giovanile Granata per un ventennio, insomma. Certo. Senta, con Sergio, intuizioni straordinarie. Mi racconta la scoperta di Platini, quando Elena le disse: vai a vedere un giocatore francese col cognome italiano che gioca a Nancy. Me la racconta? Sì, andammo a vedere questa partita. Allora, come lei sa, non si poteva portare fuori tanti soldi, si poteva portare massimo 500.000 lire, e noi andammo e sbagliammo la data dell'incontro, pensavamo si giocasse di sabato, invece si giocava di domenica, ed Elena doveva andare a vedere il Milan, che era il prossimo avversario poi del Torino. Allora dice: io torno, tu resta. Io restai a vedere Lione-Nancy, dove giocava Platini nel Nancy, giocò benissimo, il Nancy perse 2-1, ma lui fece due traverse su punizione, giocò una partita meravigliosa, e la mia relazione finì con una frase: è un giocatore che potrebbe giocare in qualsiasi squadra nel mondo. Radice si sorprese un po' per questa cosa qui, no? Però quando mi chiamò Elena mi disse: tu pensi veramente quello che ho scritto? Io penso veramente. Non potemmo prenderlo, perché come sempre il Torino alzava lo sguardo al cielo, non c'erano soldi per comprare. Senta, comprò la Juventus, perché la Juventus quando alzava gli occhi al cielo guardava verso la Fiat, e quindi era i soldi arrivavano. Piovevano. Senta Sergio, mi racconti l'ultima considerazione su Tardelli, che adesso è il nostro opinionista, l'allenatore insieme a Trapattoni e Dell'Eire. È vero che lo avevate già opzionato per il Torino, sì, a Como? Come parecchi altri, come Prandelli e diversi altri giocatori. Andai io a fare una visionatura a Palermo, un Palermo-Como, perché lui giocava nel Como. Per la verità non giocò benissimo quel giorno, io lo feci notare a Elena, il quale mi disse: magari fosse vero. Io l'ho visto tante volte, per me è un grande campione in effetti, insomma, e speriamo solo che non ce lo prendano i cugini. Ed è vero che Pianelli, invece, dopo tre giorni l'avevano preso loro. Ecco, ed è vero che Pianelli vi accolse sconsolato in piemontese dicendo una frase: l'ampia lulur. Lo hanno preso loro. Senta presidente Vatta, allora quante speranze abbiamo per il prossimo campionato di vedere la Fiumana in maglia amaranto con la stella nel prossimo campionato di prima divisione? Ma noi ne abbiamo tante, tantissime, diciamo, non so quantizzare quanto, io dico il 100%, dico, perché è un'aspettativa che ce l'hanno tutti gli esuli, è un riscatto. Noi nel 2004 abbiamo avuto il giorno del ricordo, dopo 60 anni. Il giorno della memoria, è vero? Il giorno del ricordo, del ricordo. La memoria, quella della Shoah. Della Shoah, no, il giorno del ricordo degli esuli Giuliano D'Alma. Sì, delle foibe e dei 350.000, diciamo, esuli della Venezia Giulia e Dalmazia. Quindi è una cosa che dalla federazione ci aspettiamo un'altra cosa. Ecco, 60 anni che noi aspettiamo gli indennizi dallo Stato italiano, e questo sarebbe un bel colpo della federazione in pochi mesi darci questa cosa, diciamo, tanto attesa anche per la nostra gente. Sarebbe una bella cosa, sarebbe un indennizzo anche etico. Grazie Antonio Vatta, morale, etico è tutto, è tutto. Grazie al presidente Antonio Vatta. Chiudo con Sergio Vatta. Adesso che cosa fa Mago Vatta? E adesso mi interesso della Fiumana. Della quindi farà uno squadrone. Fiumana è un sogno da realizzare. Faccio qualcosa col Torino femminile. Lei sa che io ho allenato anche la nazionale femminile, e sono molto attaccato, molto affezionato al mondo femminile, un mondo ghettizzato con grosse possibilità mediatiche di sviluppo, però si fa poco a livello, i vertici federali fanno troppo poco per il calcio femminile, va aiutato. Abbiamo solo 23.000 tesserate, quando la Svizzera ne ha 25.000, l'Olanda 90.000, e nel mondo ci sono molte decine di milioni di ragazze che giocano al calcio. 31 milioni di donne in Italia, 22.000 calciatrici. Sergio Vatta. Sembra proprio poco. Poco. Volevo aggiungere, se ho il tempo, 30 secondi, qualcosa su questa vicenda della Fiumana. Naturalmente ci fanno delle obiezioni, ma bisogna vedere le leghe, invece no, le NOIF demandano esplicitamente al presidente federale la decisione. Le due leggi che ha citato mio fratello Antonio sono due leggi che la seconda delle quali è a completamento della prima, e avviene esattamente 30 anni dopo la prima. E dimostra chiaramente che c'è proprio l'univoco orientamento del legislatore teso a reintegrare i profughi nelle condizioni di diritto precedenti. Quindi il legislatore non ha tenuto conto, questa è una delle eccezioni che ci fanno, 60 anni dopo, come mai il legislatore 30 anni dopo ha ampliato quella legge? Non ha tenuto conto di questo. Quindi l'interpretazione delle norme già emanate dalla federazione. Deve andare nel senso di un'armonizzazione con le leggi statali, perché in caso di conflitto sarebbero queste ultime a prevalere. Questo è una delle cose che molto bene la nostra istanza, che risponde a tutte a le... tutti i requisiti, e dunque c'è la speranza e la possibilità che venga accolta. Certo. Se ci danno solo l'elemosina la rifiutiamo. Vogliamo la serie C, poi possiamo parare C1, C2, perché lei deve sapere che per me, che sarei poi quello incaricato di formare questa squadra e il settore giovanile, tutto questo non è un problema. Più alta è la categoria, più facile è per me, perché ho tutti amici nell'Inter, nel Milan, nella Fiorentina, il gioco Roma, è fatto, Sergio Vatta, nel Torino, nella Juventus, dappertutto. Quindi questo è quello che ci aspettiamo. Benissimo. Con grandissima fiducia, perché abbiamo già avuto diversi contatti col presidente federale. E quindi Sergio Vatta, c'è la speranza, Petrucci, esatto, ascolti, c'è la speranza che il 2009 porti buone notizie per l'Unione Sportiva Fiumana. Lo speriamo molto, altrimenti prolungheremo di un anno e non chiederemo più una via di mezzo, ma la C1 fino in fondo. Benissimo. E noi staremo alla finestra e vi ospiteremo quando avrete delle notizie importanti da darci. Grazie, ringraziamo e salutiamo Antonio Vatta e Sergio Vatta, rispettivamente presidente della Consulta regionale piemontese dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, e il grande tecnico Sergio Vatta, che si occuperà, per così dire, della parte sportiva di questa squadra che risorge come l'Araba Fenice dalle ceneri. Gian Maurizio. E noi